Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Cosa c'è? Dai, su, il martedì, lunedì è superato, quindi bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Cappe Drago. Ecco, oggi sarebbe bello fare un vero talk show con ospiti, perché? Interventi, serie, eccetera. Come perché? Perché lo dico io. Solo che siamo in un asilo e il materiale umano è quello che è, quindi il talk lo facciamo solo io e te, eh? Il talk, certo. Il momento talk. Il momento talk, cioè prima le news e poi il talk. Adesso io devo fare le news. Siamo una radio news and talk. Infatti. Vabbè, dai, bravo Tito, non farci perdere la concentrazione. Allora, lui in realtà è qui per farci venire. E invece a me la toglie. Cosa ti devo dire? È un problema tuo, però. È un cane. E basta, Tito. Allora, vabbè, dai, il tema è interessante. Come avevamo già detto forse diverse volte, stanno proliferando voli aerei e vacanze senza bambini, cioè voli e villaggi turistici in cui si è sicuri che non ci sono i bambini, e divampano le polemiche. Quindi vorrei provare a riflettere con te sul significato profondo di dai, non siamo ancora al pisolino, ma dai, ma pare significato profondo, mi viene il sonno profondo. Per forza, non sei più abituato alla profondità come tutti gli adulti bambini di oggi. Sei proprio un caso tipico. Vabbè, allora, vacanze senza bambini. Sì, dai, vacanze senza bambini pubblicizzate proprio come no kids, si chiamano così. Vabbè, cosa c'è di strano? La popolazione invecchia, Drago, in vacanza vanno quelli che possono permetterselo. E di solito chi ha figli è così povero che in vacanza non ci va, no? Vabbè, Carmelo, quindi, è vero, così, è così. Si va in vacanza con i figli. Guarda, vedi, fa il gesto dell'ombrello, quindi non ho capito. Cominci a avere anche tu l'amico immaginario come il bambino Alberto. Chi è sto Carmelo? E poi te lo spiego, guarda, vabbè, che è un personaggio tutto. Guarda che è Tito, vabbè, dai. Allora, quindi chi ha figli non va in vacanza perché è povero. Certo, quindi alla fine i soldi per le vacanze li spendono solo quelli senza figli, i single. Oppure i vecchi che hanno risparmiato. I vecchi. Quindi, Drago, di conseguenza il marketing si rivolge a quella fascia di popolazione che ti ho detto, quelli lì. E quindi, dicendo no kids, strizzano l'occhio a chi ha i soldi da spendere. È elementare, Drago. Sì, vabbè, elementare. Ho capito. Ma se uno ha dei figli e vuole andare a fare proprio quella vacanza lì, cosa? A farsi una vacanza per famiglie. Scusa, ma non so se esistono, no? Però le inventeranno presto. Le vacanze per famiglie. Sì, vacanze in luoghi dove ci sono solo famigliole. Pensa che bello. Vabbè, un incubo, direi. No? Appunto. Ma chi ha deciso di riprodursi è comunque abituato a vivere incubi su incubi. Beh, sì. Quindi incubo più, incubo vabbè, meno. Però facendo così il tempo libero sarà diviso rigidamente in tempo libero per persone con figli e tempo libero per persone senza figli. Non è bello. E già mi vengono in mente alcune cosette sulle vacanze senza bambini. Cosa? Che siano scuse per fare vacanze. Vacanze con sesso libero e scambio di copie. No? A te cosa te ne frega? Può anche darsi. Niente, no? Ma a saperlo uno si organizza. Psicoterapeuti, psichiatri, psicologi e psicanalisti, per una volta, si sono trovati tutti d'accordo, ognuno col proprio albo professionale, il loro sindacato di categoria, si sono trovati tutti d'accordo nel dire che in realtà i bambini dovrebbero essere portati dappertutto. Quindi andiamo dappertutto. Contro i no kids, dappertutto. Gli adulti dovrebbero fare esattamente quello che farebbero se non ci fossero i bambini, però i bambini ci sono. Semplicemente allora te li porti dietro. Devi andare a una festa in cui ci sono solo adulti. Ti porti il bambino e buonanotte, almeno si abitua anche a tollerare la noia. Devi andare a un funerale, non vuoi che tuo figlio si impressioni o ti faccia domande sulla morte? Lo porti lo stesso e rispondi le domande sulla morte. No, capito? Lo terrorizzi. Devi andare in vacanza e non hai voglia di fare il papà anche in vacanza? Porti tuo figlio o tua figlia e fai il papà anche in vacanza. Queste sono le soluzioni che dicono. Sono d'accordo, però ormai la sensibilità antibambino è diventata dominante. Io non sono, appunto, non ho figli, però non sono intollerante verso i bambini, e vedendolo dal di fuori mi sono convinto che si stava meglio quando si stava peggio. E cioè, quando i bambini erano tipo delle valigie che i genitori si portavano appresso, si facevano un sacco di cose di fronte ai bambini, si fumava, si litigava, si dicevano parolacce e non succedeva niente di che a questi bambini. Ora i bambini sono rinchiusi in una realtà immaginaria in cui tutto sembra andare bene, invece cappa. Mi sono spiegato, cappa! Fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un un orologio firmato? Il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato e il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa e il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa e il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. Proviamo a immaginare un posto senza bambini. L'Italia, per colpa di gente come te. Vabbè, io non mi sono mai fatto visitare, però credo di essere sterile, quindi non credono parlare tutti così finché poi a un certo punto... Non credere che io non ci abbia provato, però... Sì, però bisogna essere in due, Drago, no? Drago, in due! Ho capito. Questo è molto divertente. Vabbè, immaginiamo un posto in cui ci sono solo adulti. Sì. Non è difficile, basta uscire dall'asilo, vai, non so, nella redazione di questa radio News and Talk e qui il No Kids funziona già. Qui non, i bambini non entrano. Non possono entrare né i bambini né gli animali. Allora, Tito, infatti, lo facciamo entrare, non bisognerebbe dirlo nella borsa. Ma c'è una logica in tutto questo? Questo non lo so. Analizziamo i dati che abbiamo noi in nostro possesso. Li ho raccolti su questi fogli. Questi fogli sono i dati, no? Quando tu hai dei fogli in mano, dici dati alla mano. Dati alla non mano. È che hai i dati, hai i fogli. Hai i fogli con i dati. Fogli, dati alla mano. Allora, qui è un posto dove si lavora. Sì, si lavora. E ci lavora tanta gente. Ok. Per entrare qui dentro devi lavorarci, se no non ci puoi entrare. Ok. Oppure se sei ospite, ma insomma diciamo è sempre che ci lavori. Okay. Allora, infatti c'è una reception all'ingresso dove c'è l'allenatore del Napoli, Mazzarri, travestito, con una barba finta. Ma non è vero. E chiede a tutti quelli che vogliono entrare. Si chiama Dario questo. Chiede da chi va. Da chi va. E loro va. Tu dici. Basta far segno che entri dal montacarichi, lui fa ok con la testa e tu sei entrato. Ah, quindi anche se non. Cioè, dici, vabbè, da chi va? In teoria. Qui entri solo se ci devi lavorare, quindi se sei un bambino o un animale, Mazzarri non ti fa passare perché non puoi essere qui per lavorare. Però capito, ma chi lavora può avere un figlio o un animale e aver bisogno di portarselo dietro momentaneamente. No, non si può. E perché? Perché c'è un regolamento. Ok, ma lasciamo stare il regolamento e parliamo di logica, no? La logica è che l'ufficio legale dell'editore, il Sole 24 Ore, dopo una ricerca accuratissima, ha pensato bene di escludere a priori ogni tipo di incidente in cui fossero coinvolti i bambini. Capito? Capito. E gli animali? Gli animali possono essere la causa degli stessi incidenti, perché gli animali sono imprevedibili. Cioè, secondo te una tartaruga può causare incidenti? Dentro. Vabbè, ma che ne so, ma mica uno chi è che porta una tartaruga? Ma non lo so. Mazzarri mica la vede, capito, la mette in borsa, è come Tito. Ma no? Scusa, ma che logica c'è dietro tutto questo? Se l'ufficio legale ha così paura degli incidenti, perché non stipula una polizza che includa bambini e animali? E poi siamo sicuri che gli adulti che lavorano per questo editore siano poi così meno imprevedibili di un animale? Vabbè, guarda Carmelo, il tuo amico immaginario, poi c'è Claudia, sono tutti mansueti, Claudia però, mansueta. Vabbè, ma uno come il bambino Cruciani non fa meno danni di un Rottweiler impazzito, vabbè, quindi non capisco la logica. Ma che significa? Però, caro Cruciani, lo scopo da raggiungere, ok, questo lo capisco, però è raggiunto in modo unilaterale e illogico. Ma poi tu cosa ne sai di logica tu? Niente, però ci troviamo di fronte a un mucchio di contraddizioni, scusa. Beh, attenzione, perché anche per la contraddizione vale quanto è noto per le metavariabili. E cioè che sono contraddizioni anche tutte quelle formule di formule che sono riconducibili ad una contraddizione. Vedi che è meglio che non parli di logica? Blues non parte, vabbè, è un parte un po' bandistico. Sofferto. Blues vuol dire dai. Appunto, vabbè, dai. Sofferenza, blues. One, two, three. Così è jazz. Non partire. Vabbè, ma il blues e il jazz hanno la stessa radice. Pentatonica, Drago, pentatonica. Africana. One, two, three, four. A te io chiedo asilo, a te bambino Alberto, adotta un tunisino che viene dal mare aperto. Chiedi asilo. Oh, non sappiamo da chi vengono queste quartine, grazie lo stesso comunque. Scrivete a Chiedo Asilo, è tradio24.it. Ma sì, arrivano da Alice, da Foggia. No, Alice penso che sia un gestore telefonico.